5G. Ascolta e rispondi. Luisa ha ricevuto la lettera? Sì, ha ricevuto la lettera. Maria ha avuto tempo per riposare? Sì, ha avuto tempo per riposare. Mario ha bevuto molto? Sì, ha bevuto molto. Alessandra ha saputo la verità? Sì, ha saputo la verità. Livia ha venduto i libri? Sì, ha venduto i libri. Elda ha voluto una spiegazione? Sì, ha voluto una spiegazione. Elisa ha conosciuto Eva? Sì, ha conosciuto Eva.